Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Questa è la storia di Maurizio Poggiali, capitano navigatore di Tornado Militare. Partito con un velivolo da Pratica di Mare, a destinazione non è mai arrivato. Per raccontare questa vicenda, Giallo e Nero oggi si avvale di Fabio Poggiali, fratello di Maurizio Poggiali, attore, regista, interprete di uno spettacolo di teatro civile, Missione 933, rispondete. 8 agosto 1997. Il cielo è limpido, nessuna nuvola. Sulle aerovie italiane tutto sembra regolare, così come tranquilla è la situazione sull'aereo militare CI-208. Gli strumenti di bordo sono perfettamente funzionanti. Nessuna spia di emergenza è accesa. CI-208M dell'Aeronautica Militare Italiana. A bordo, capitano pilota Matteo Pozzoli, 30 anni. Seduto alla sua destra, capitano navigatore Maurizio Poggiali, 32 anni, considerato uno dei top gun dell'Aeronautica Militare. Con loro, l'allievo maresciallo motorista Ermenegildo Franzoni, 24 anni, seduto nei sedili posteriori. Il velivolo militare è decollato poco prima, alle 10.47, dall'aeroporto di Pratica di Mare. Per un capitano navigatore di Tornado come Maurizio Poggiali, il volo su un vecchio CI-208 è una curiosa eccezione inserita nel piano giornaliero solo all'ultimo momento. Il programma di volo redatto il giorno prima dalla base di Pratica di Mare prevede una missione a bordo di un G-222 con destinazione Genova. Ore 10.47. Pronto, buongiorno, qui 933. Buongiorno 933, avanti. CI-208, istruzioni rullaggio. Richiami attesa 31, vento calmo 1016-3001. 1016, 933, se autorizzata riporterà per 13. Ricevuto 933, in questo caso procede dritto per il Bravo, farà poi eventualmente un contropista. Copiato, ripetere il vento, grazie. Attualmente 4 nodi, si mantenga bene al centro del raccordo. Va bene, copiato. Autorizzato 933, richiami, pronto al decollo. 933, pronto al decollo. 933, autorizzato. Autorizzato a decollo, quando pronto, vento calmo a sinistra, poi Aprilia. Autorizzato a sinistra. Avanti. 93, lascia la frequenza, passa con Roma informazioni. Buona giornata. Qualcosa comunque manda all'aria il programma e Maurizio Poggiali si ritrova a bordo del CI-208. Lo scopo della missione è l'addestramento alla navigazione in un volo a vista. La rotta prestabilita è di breve impegno, Pratica di Mare, Aprilia, Pratoni dal Vivaro, Pratica di Mare. Poche centinaia di chilometri sulla campagna laziale, da coprire in poco meno di un'ora, in condizioni climatiche perfette. 3 minuti dopo il decollo, però, il CI-208 avverte il centro di controllo di Ciampino di un cambiamento del programma di volo e comunica l'intenzione di dirigersi verso Norma. L'operatore non capisce bene il nome della cittadina laziale e trascrive Norva. Ore 10.50. Qui Roma informazioni, sentiamo disturbi di fondo, può ripetere il nominativo? È la missione 933. Ah, missione 933, buongiorno, avanti. Buongiorno a voi, un CI-208, pratica, attualmente prossimo a Velletri, manterrà 1000 piedi ground. Ricevuto, prossimo a Velletri, rotto in quote standard, prossimo punto? Velletri, poi Norma e passerà con Ciampino. Ricevuto 933. Roma dalla Velletri 933 su Velletri inbound. 933 abbiamo copiato su Velletri al presente, il prossimo punto. Norma. Norma, copiato. Alle 11.03 l'operatore del centro di controllo di Ciampino chiama il CI-208M, senza ottenere risposta. Riprova più volte. E alla mancata risposta avvia una serie di contatti telefonici con enti, aeroporti limitrofi. Missione 933 Roma. Missione 933 Roma. Missione 933 Roma informazioni, riceve? Missione 933 Roma informazioni, riceve? Missione 933 rispondete. Missione 933 rispondete. Missione 933 rispondete. I Iniziano subito le ricerche, ma c'è qualcosa di strano. Ore 12 e 10. Qui torre di controllo, dimmi. La 93 mi interessava. Niente? Oh, dimmi. Aspetta, il collega sta parlando, stava parlando col VFR. E chi ha detto che fate il messaggio d'incerfa? Fate l'incerfa lì. Voi? Cioè lui faceva l'incerfa, l'altro collega del VFR. Ah, ho capito. Io lo faccio, fallo pure te però, perché sono scaduti i 130 minuti adesso, eh. Vabbè, ma... E comunque devi farlo tu l'incerfa, non devi farlo tu. No, scusa un attimo, tu c'hai uno stimato di rientro come aeroporto. Sì, vabbè, ma che c'entra, però l'ultimo ad averlo in contatto sei stato te. Il messaggio devi farlo tu. Vabbè, lasciamo perdere, va, ciao. Ciao. Nonostante la gravità della situazione, il centro di controllo di Ciampino non rispetta le procedure d'emergenza previste. Comunica con 1 ora e 15 minuti di ritardo il messaggio di fase di incertezza che dovrebbe scattare 30 minuti dopo l'ultimo contatto radio con l'aeromobile scomparso. Non emette il comunicato di fase di allarme che scatta quando i tentativi di collegamento con l'aeromobile e la richiesta di notizie presso altre fonti non hanno dato risultati. Comunica con 30 minuti di ritardo la fase di pericolo che scatta allo scadere dell'autonomia del velivolo. Alle ore 13 dell'8 agosto 1997 l'incidente è ormai considerato certo. Le operazioni di soccorso prendono il via ufficialmente, ma dall'ultimo messaggio radio sono già passate 2 ore. A questo punto, la responsabilità delle operazioni passa per competenza territoriale al coordinamento soccorso di Ciampino dell'Aeronautica Militare. Intorno alle 21, i controllori di Ciampino interrompono il lavoro. Qui soccorso aereo. Buonasera, qui la torre di controllo di Latina. Buonasera. Allora tutti i velivoli sono rientrati, quindi non c'è più bisogno della vostra assistenza per quanto riguarda il traffico aereo, va bene? Sì, e senta, per quanto riguarda domani mattina? Sì, domani mattina a che ora riaprite? Da lunedì a venerdì alle 6.30, domani che sabato alle 7.30, possiamo fare regolarmente alle 6.30? Sì, alle 6.30 andrebbe benissimo, prima delle 6.30 sicuramente non ci sarà necessità, la ringrazio. Buonanotte. Ciò che resta del velivolo e dell'equipaggio sarà ritrovato il 9 agosto 1997, esattamente 24 ore dopo, da una famiglia in gita nella zona di Monte Lupone, vicino a Latina. L'equipaggio è formato da 3 persone, 2 si salvano, perde invece la vita il capitano Maurizio Poggiali. Alle prime luci dell'alba di sabato 9 agosto 1997, sulle montagne presso Cori e Norma, l'aereo ed i 3 a bordo sono ricercati via terra esclusivamente da generosi volontari e pastori della zona, senza mezzi né addestramento, nonché da alcuni familiari del capitano Poggiali, il fratello ed il cugino. Il relitto del SIAI 208 viene ritrovato poco dopo le 10 del mattino, trascorse 24 ore dalla caduta. L'aereo viene localizzato non da una delle 2 squadre impegnate ufficialmente nei soccorsi, ma da un gruppo di gitani di cui fanno parte anche alcune signore ed una bambina di 11 anni. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare la storia del capitano navigatore di Tornado Militare, Maurizio Poggiali. Giallo e Nero, di Daniele Biacchessi. Maurizio Poggiali è uno dei migliori esperti di navigazione aerea militare. Poggiali non è un pilota qualsiasi. Maurizio Poggiali nasce a Roma il 19 febbraio 1965, Roma. Fin da adolescente dimostra grande interesse per il mondo culturale e scientifico. si impegna per la creazione di un organismo giovanile europeo ed attraverso i suoi scritti e la partecipazione a varie conferenze ed incontri espone la necessità e l'importanza della collaborazione fra i vari paesi europei nel settore scientifico-tecnologico con il fine ultimo di aiutare il processo dell'integrazione europea. Dal 1986 al 1990 frequenta il corso regolare Falco 4 presso l'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli Napoli e consegue il brevetto di navigatore d'aeroplano. Negli USA conseguirà il brevetto di pilota privato. Tornato in Italia, completa il suo addestramento di navigatore alla base aerea di Lecce. Nel 1991 è assegnato al 154esimo gruppo cacciabombardiere ogni tempo del sesto stormo di Ghedi, Brescia. Partecipa ad esercitazioni di addestramento e di tattica di guerra e, per il conflitto in Bosnia, alla NATO Operation Sharp Guard nel Mar Adriatico. Nel 1996 il Ministero della Difesa lo nomina istruttore di specialità sperimentazione. Aveva accumulato 1000 ore di volo su più di 15 differenti tipi di aeroplani ed elicotteri militari. Il fratello di Maurizio Poggiali, Fabio, attore e regista, interprete di uno spettacolo di teatro civile, ci racconta il retroscena di questo grave incidente aereo. Questo aereo decollò alle 10.47 dall'aeroporto di Pratica di Mare, provincia di Roma, pochi chilometri da Roma, dove mio fratello prestava servizio presso il reparto sperimentale volo. Dopo pochi minuti cadde alle 11.01 e per una giornata intera l'aeronautica militare dichiarò disperso l'aereo, cioè in pratica non riuscì a ritrovarlo. I messaggi di allarme che furono dati con gravissimo ritardo, sia quello di allerfa che quello di destrezza, cioè il messaggio di allarme parziale e poi quello definitivo quando ormai si ha la certezza che l'aereo sia caduto. E quindi per un giorno intero la mia famiglia, così come le altre famiglie degli altri due occupanti del velivolo, rimasero in attesa di avere notizie che però venivano soltanto dall'ANSA, dai telegiornali, dalle radio. Allora io mi precipitai nella zona dove era stato detto dall'ultimo messaggio radio dell'aereo che l'aereo fosse passato su quella zona, e quindi l'ultimo messaggio radio era: siamo a Velletri, ci dirigiamo a Norma e poi a Norma vi ricontattiamo. Evidentemente, se non hanno ricontattato, l'aereo è caduto nella zona tra Velletri e Norma, e quindi mi precipitai proprio nella zona a Norma e vidi con i miei occhi e constatai con i miei occhi che non c'era nessuno a cercare un aereo militare e tre uomini dispersi in quella zona in cui appunto avevano detto di essere. La vicenda viene poi ricostruita e si delinea un quadro abbastanza completo. Il processo di primo grado inizia nel marzo 2001 e si conclude nell'ottobre 2003 con l'assoluzione del maresciallo Franzoni e la condanna del pilota Pozzoli ad un anno per omicidio colposo. Il capitano Pozzoli, dopo pochi mesi dall'incidente, viene riammesso al volo con jet militari. Nel 1998 viene promosso a maggiore e successivamente tenente colonnello. Sarà poi condannato in appello ad un anno e sei mesi per omicidio colposo e disastro aereo colposo dalla Corte d'Appello di Roma. Così viene stabilito dalle indagini e dai processi. Così ci conferma Fabio Poggiale. Una missione di addestramento per il maresciallo Ermenegildo Franzoni, che era un tecnico, era un giovane allievo, quindi il volo era per l'addestramento del maresciallo, per l'ambientamento al volo del maresciallo motorista che era seduto nei sedili posteriori. Da lì un'odissea giudiziaria, perché sono 7 anni, il processo per i responsabili del soccorso aereo di Ciampino, sono 4 ufficiali che gestirono male, posso